Ci cucano alle 10. Sì. Oh. Attenzione Gianni, attenzione Claudio. Io ci sono. Guarda un po' come ti arrivo, 1, 2, 3, prova. Gianni? Ehi, ti sento bene, sì, sì. Come mi senti, bene? Sì, è chiaro. Ma è che normale, il suo originale. No, è carino, si accende RX quando muovo il microfono e TAIR quando io trasmetto. Bello. Mandami la foto a vederlo. Aspetta. Aspetta, la mando. Ok, inviata. Ricevuto. Non sembra CTS, ma assomiglia al CTE. Cosa? Che assomiglia al CTE. No, oh, no, è CTE comunque. Adesso appoggio il microfono. Se riesco a fare luce. A vedere, cazzo di fritti non si va. Allora. Electronic CB800 si chiama, boh, basta. C'è bellino, sì, non è brutto. E tu che apparato stai usando? Adesso sei solo il Cobra. Cobra? K. Ma ci hai amplificato sotto, sì. Sì, amplificato. Fai un passaggio più lungo già. Cosa? Passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, adesso. Passare volume. Ma che è forte esce? Cosa? Com'è, c'è forte? Via. Questo è l'abbinamento del microfono che avevo sul Galaxy e l'ho messo qua. Aspetta un 15 secondi. Ciao ragazzi. Hai ricevuto la mamma? Gianni? Sì. Ecco. Come ti arriva adesso? Un po' più basso di radio. E adesso, 1, 2, 3, prova tipo, aspetta. E adesso, aspetta che intanto. Troppo vicino sono qua. Adesso com'è? Tutta la luci. Lo so perché sono proprio vicino. Così va bene? Sì, va bene. E sono sopra il Galaxy. Però con il microfono tuo originale. Ah. Ma comunque la cosa è chiara adesso, dai. È chiara, poi devi avere qualche altra parte accesa, per quello che sta fischiando, ci avrai l'altro acceso. Come ti arriva? Sembra bene già? Sì, sì. Siamo da bene, dai. E ci voglio controllare anche le stazionarie, intanto, secondo me è stato controllato, diciamo così. Niente, 1-1 proprio. Non ne ho. Vanno bene, no. Non hanno stazionali con le antenne di. Già va bene. Senti, faccio la foto di quel ricevitore che mi sono preso. Io te l'ho detto, qualità prezzo quell'antenna, è ultima. Già va bene questo qua. Una piena di cacca, che cosa posso qua? Va benissimo. Anche se hanno messo dei cosi che è fatta male come antenna, che c'è un filo fino, buh. Io penso che va bene già. Poi. Allora. Ecco. Ti ho mandato il ricevitore già, guarda un po'. C'è 3,5 metri, che te ne è una cosa complicata, però non sembra complicata. Vabbè, i tasti sono per mettere la frequenza, così puoi mettere la mano, puoi memorizzare su 16 canali, puoi memorizzarli, puoi digitare la frequenza con i tastini. E bisogna che ho il depliante, c'è tutto quanto, me devo studiare. Ah, ti hanno mandato le istruzioni, da. AM e FM. Va bene, da. AM e FM, 27 solo. No, cazzo, siamo di frequenza, a me perché che va da 0 a non mi ricordo se a 1 o 2 giga. E là ce la divertite, che là c'è anche uno scanner che fa girare tutto. Sì, c'è anche lo scanner, schiaccio va la frequenza automatica, una curia, rasura tutto il frequenzivo e dopo ci blocca dove c'è la stazione forte. E già va bene, quindi ti ascolti qualche cosa. No, io non ne ho più frequenzimet, ma ricevitore, l'avevo dato, uno l'ho dato, non mi ricordo a chi, ne ho venduto due. Ma io c'ho anche l'altro ricevitore che avevo comprato dalla CBC, è The Brick, come cacchio si chiama, che è più piccolo di questo, ma è carino lo stesso, assolutamente 7, ma questo mi piace di più. Questo ho preso un tipo di Paolo Forse, l'ho contattato, 50 euro, e mi ha portato fino a casa. 50 euro solo? Sì. E va bene. Se va bene già, perfetto. C'è il suo alimentatore, ma anche la scatola, tutto l'ha dato. Ma come ce l'ha venduto questo? Perché lui non c'aveva l'antenna, non lo sa usare, lui ha acceso e basta, si tira, e basta, non c'è l'antenna, dice, me l'ha regalato, parente sua, però l'ha buttato sempre da una parte, dopo un anno e mezzo me l'ha messo, si è messo su Facebook e me l'ha subito addio. Andare, è la moto, venuto? A settembre mi compiace Suzuki. Ma sicuro, mi ha richiamato, mi ha detto che lui ritira fine settembre e viene e si piglia la moto. Poi c'è il passaggio, giustamente. Vabbè, certo. E l'altra niente? E l'altra, adesso metterò anche l'altra. Tanto il perito è già venuto, quindi. Purtroppo il perito è Firi e non so niente dell'assicurazione. Devo aspettare, capito, che rientro dalle Firi e poi saprò il danno che mi ha fatto parecchie foto, tutto quello che serviva. Ma è stata della Force? Ah? Della Force l'ha detto? Certo, ha fatto una foto anche lì, tutto. Carena, che è rotta la parte, che è uscita. I grafici, c'ha tutto. E te la rimetti a nuovo adesso? Vabbè, ma io già me la vendo e c'è la mia luce. La luce, 500 euro, me ne frega niente. Boh. 500? Non me ne frega niente, poi c'è della sua, ce la metto in guia, la vendo così come adesso. A presente ci ho messo tutte e due gomme nuove, c'erano una settimana quelle gomme sotto. Cioè. Non mi interessa più già. A me piace bella moto, però no. Quando sono latte mi teneva il naso e ti dice pieggia di nuovo, basta, per carità. Uno di voi ci ha chiamato il suo capo di pizza che fa un gurruglio qua. C'è sempre informazione che fa le cazzate. Da poco mi ha chiamato Claudio, sta parlando con Stefano, ha detto che ha avuto incidente, mi ha chiamato. E ha detto sì, come è successo, sto fatto. Ma vabbè. Interessante che ne puoi parlare da buchi, se la bide luce la notte. Infatti, tutte e due non ci vendete, buon parte, non avevo sapere. Certo, sei in macchina, questo danno non me l'avrei fatto, Proprio se ero con la macchina, certo, ma tu non ti saresti fatto nulla. Lo so, purtroppo. Comunque per me era lui al telefonino, perché stava facendo l'orbita vicino a Sacro Cuore, stava facendo via Petromica, l'incrocio, e aveva nel cofano una torta, mi hanno detto. Quindi, compleanno della figlia, lui avrà chiamato la figlia, dice, oh, mica sto arrivando, sono già qua vicino a casa, pacchete, è passato con Rubio. Ha detto che involontariamente è passato con Rosso, perché il sole l'ha preso agli occhi. Dove abita Sacro Cuore? Lui abita a Sacro Cuore, abita quella zona lì. E allora lo conosco sicuramente. Se mi passa il cuore, io ci ho mettato la vita a Sacro Cuore. E vabbè, dico, poi Sacro Cuore sarà nei paraggi intorno, lui è un barbiere comunque, me. Barbiere, boh. E magari è gente nuova che arriva. Allora, ciao. Vabbè, lui si chiama Massimiliano. A passo, sì. Ma allora? No, non mi viene il nome, ma vabbè, ci ho abitato 30 anni a Sacro Cuore, però magari gente che è venuta dopo. È un po' più piccolo di me, l'età, è 73 mi sembra. Era importante. Grazie per averci coperto il QRM. E io là, sottofondo già mi piace la musica. Io a me ho sentito il QRM. Ecco. programma. Continuate, ciao. Ciao Fla, buonasera. Ehi, ciao Fla, e vabbè. Deve essere a parte alta. Perché se copre da Claudio e noi ci sentiamo, non è possibile che sia qua. Sulla 17:42 su RTL 125 il passo di questo. Vabbè. Se Gianni attacca passa, se non attacca non mi sento. Dai, ciao, mi sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adesso che cosa ha fatto con Ritio, con Rix, mai metti la musica sottofondo che Gianni già ci sentiamo. Tu, il romano del biuro, me la faccia a me. Poi faccio lo passo, chiudo tutto, ti chiamo al telefono e mi e sento al telefono senza portate già. Ma non c'è bisogno, dai, non è così tanto potente. E vabbè, proprio la pazzia che è la cosa, Claudio, non ci passiamo. Ma tu non ce l'hai il coso, la macchinetta non ce l'ha. La macchinetta? Però... ma è piccolo o grande? Piccolo grande. Come faccio a prendere il cielo nell'armadio a muro e peso una tonnellata? Così mi fa di burra franca. Certo, per parlare uno deve ricorrere a mezzi estremi. Dopo 50 anni che non c'è nessuno in frequenza, entri e tu che la portate, ma dimmi. Vabbè già, almeno... è arrivato a questo punto, non me la fotti in nulla. Non so se mi soffrisco, che sto vendendo tutto a blocco. Anche non me la fotti in nulla. Mette roba la chiesa soltanto e basta. Il resto vendo tutto. E cosa ho messo? Tutto. Mi servono 23 canali, non so. Tutto, ricevitori, PMR, gacci, tutto. Quello Edison, come cavolo si chiama. Un bel baracchini vintage. C'ho Zodia, che è ho stazione fissa, ne ho un po' di roba. Poi finale, quello lì, poi il piccolo, grande, tutto, via. Microfoni, espander, e dato da tavolo nero, ne ho roba, ne ho. Cappare. Ho messo la cifra tonda, ho 1000 euro da durato, la mia luce, anche se ci perdo. Compro. E non me l'ho visto, mi dicete, ha visitato, mi piace, qualcuno mi ha scritto, e sicuramente nulla, o tutto, o niente. E allora potevamo venire a rate, voi. Che non vuoi? Ma le parti vuoi di Cagliari, ma no, io vendo tutto completo. Pacco unico, mi c'è vedi che ho la carrozzera di Bitus. Però singolo non vedo niente, mi dispiace. A me non mi dà fastidio, mi sono fatto quell'armadio a muro, tutto me l'ho sentato dritto. Chiudo il sportivo e non ci vede niente. Vabbè. Ma ogni tanto, guarda, magari adesso ne vedi un altro che ti piace, te lo compri, se succede sempre così, perché poi prendi e ti ripri. No, c'ho poi il rosso la trovate, c'ho anche il TM1000 in più, a parte. Se il rosso trovate, metterò, ma è bello quello di TM1000, quello grande. E niente, poi c'ho anche il famoso alimentatore. Ne ho due alimentatori, no, tre, quattro ne ho alimentatori. Uno che l'ho tu, l'altro che ho io, con la svita che era di Manuela, che mi aveva venduto a me. Bello quello di 32 watt mi sembra, ma 32 ampere. Poi ne ho altre due, che ce l'ho tutti dentro, mezzo all'armadio. PMR, c'ho quello che mi ha dato Gio Maria, bello, al più portatile, ne ho due PMR. Ricevitori 2, baracchini pure sono estremi, ma forse non so quanto mai. Adesso sta riuscendo gracchiante, non so se sia l'apparecchio o se ti stava mettendo la portante, non ci vuole la voce gracchiante. Se c'è una portante, c'è una portante, c'è la portante già. Ma che gusto mi mira, non capisco io. Ma stava entrando, ho detto la sua per rompere le scale. Il fratello è disolato, ciao. No, io non me la faccio lasciare un cattivo. Se Gianni non mi sente, non posso anche vedere il telefono telefonarlo. Ma dici no, a me è la portante, mi la sto sai. Va. Ok, commissione. Beh già. E questo ti passa, ti sta. E non ce lo faccio a prendere quello grosso, perché con le notte devi dire male, peso un calemoto con la fare lì. Questo qua vicino, questo qua non è quello di poco fa, ma questo qui ti tappa in brutto. Questo usando più di 100 watt, lo dico io. Il mio segnale 9,40 non viene. E vabbè, domani c'è viene qualche persona qua, me la faccio accendere, lo metto nel buco e me l'attacco quello grosso, ho capito. Il segnale me l'ho registrato, tu non parli più, perché adesso rimango in ascolto, sempre acceso il baracchino. Come ti sento, segnale tuo, ti metto la portante. Ti telefono già. Male già passi, 9 più 40 è fortissimo la portante. Che gusti, guarda. Binario 10, c'è qualcuno? Hola chicos! Se si abbassa. No, che non mi ha alimentazione. Hola! Hola! Si abbassa la luce. Thank you.